Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio, sono le 13:32 minuti e 40 secondi. Buongiorno da Daniele Biacchesi, seconda edizione di Italia in controluce, il racconto della cronaca di Radio 24. Ci sono battaglie importanti per cui a un certo punto ti chiedono da che parte stare. La battaglia degli imprenditori siciliani che si rifiutano da mesi di pagare il pizzo alla mafia è una di quelle. Il racconto da Palermo di Nino Amadore. Li si potrebbe chiamare attacchini, da attac, la colla che usano per bloccare le saracinesche dei negozi. Sono i mafiosi palermitani, coloro che tentano di accreditarsi come nuovi padroni della città. I picciotti emergenti si scontrano con le denunce degli imprenditori. Sono più di 80 coloro che hanno trovato la colla nei lucchetti e 5 minuti dopo erano già davanti a un carabiniere o agente di polizia a far verbalizzare la denuncia. Spiega Enrico Colaianni, presidente dell'associazione antiracket Libero Futuro. Ma evidentemente tanti atti intimidatori, quasi un crescendo, evidentemente significa che c'è una necessità, una richiesta di soldi maggiore da parte dei mafiosi e probabilmente o certamente una difficoltà a riscuotere, perché gli imprenditori per tante ragioni stanno cominciando a resistere, si rifiutano di pagare e di avvicinare i mafiosi. Questa è un po' la nostra interpretazione. Il fatto che gli imprenditori denuncino l'attac è un segno positivo, perché in passato invece probabilmente sarebbero andati a cercare qualche amico per pagare. Una novità assoluta in una città che fino a un paio di anni fa tendeva a negare. Quella colla è il termometro della pressione dei disperati che aumenta. C'è bisogno di soldi per gli avvocati, per i detenuti e le loro famiglie. C'è bisogno di dimostrare di poter ancora controllare il territorio. Come spiega il comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, il colonnello Teoluzzi. L'attac va letto da tante prospettive. Quella che io ritengo più realistica è deriva dal fatto che comunque l'organizzazione mafiosa in questo momento è in seria difficoltà, quindi ha però l'esigenza di continuare a fare questa raccolta di denaro contante attraverso i racket, perché ricordo tutti, il denaro contante serve per mantenere l'organizzazione, sono le spese correnti dell'organizzazione, servono per mantenere i familiari detenuti e negli ultimi 2 anni sono stati arrestati oltre 300 mafiosi solo qui a Palermo. L'aumento delle denunce è un risultato tangibile della grande operazione di pulizia che è stata fatta in città. Sono stati arrestati grandi latitanti, da Bernardo Provenzano ai giovani rampanti come Gianni Nicchi e Domenico Raccuglia, ma anche della rivoluzione culturale avviata dagli imprenditori di Confindustria che hanno detto di no al pizzo e alle collusioni. Le denunce degli imprenditori che pagavano sono aumentate parecchio. Sono oggi più di 100 a Palermo e dintorni e solo in pochi hanno resistito alle domande dei magistrati beccandosi condanne per favoreggiamento. Capita sempre più spesso che gli imprenditori respingano le richieste del racket, come ha fatto Giuseppe Mortillaro, titolare della MG di Termini Merese, che produce motorini elettrici per tende e infissi. 6 dipendenti e un fatturato medio di 500.000 euro. Ma il mio ragionamento è stato quello di cercare di distoglierli di questa loro pretesa e di invitarli, che la loro venuta era verteva possibilmente a occuparsi, a cercare un posto di lavoro e non questa minaccia che mi hanno sottoposto. Quindi lei ha cercato di dissuaderli, ma quanto chiedevano, cosa volevano? Le cifre erano abbastanza elevate, oltre al contributo, perché mi avevano chiesto un approccio di una tantum per il regresso, pari a una ventina di mila euro, quello qualcosa di questo genere, e poi un 2.000 euro mensili. 2.000 euro che però Mortillaro non ha mai pagato, come lui hanno fatto anche tanti. Certo, non c'è stato il boom, ma di sicuro tutte le denunce, che sembrano poche, sono un salto di qualità rispetto all'epoca del pagare meno, pagare tutti, voluta da Bernardo Provenzano. Denunce che in gran parte arrivano dalle aree industriali di Carini, Brancaccio, Termini Merese, aree industriali dove è sempre più massiccia l'adesione degli imprenditori all'associazione antiracket Libero Futuro e alla lista del consumo critico promossa dal movimento Addio Pizzo, che ora promuove anche la class action contro la mafia. Ed è grazie a imprenditori come Mortillaro che sta crescendo nelle aree industriali la consapevolezza di un impegno antimafia. Da quell'impegno sono nate o nasceranno in varie aree vere e proprie filiere della legalità. Italia in controluce. Quando sono le 13:37 minuti e 22 secondi, il nostro obiettivo si sposta da Palermo a Napoli. Perché anche lì il territorio dove i boss della Camorra Esistono imprenditori coraggiosi che non pagano il pizzo e denunciano i loro estorsori. Il racconto di Paolo Picone. Sono venuto in azienda da me, e era il mese di luglio, e mi hanno invitato ad andare a casa del boss, del clan, del capoclan, che era Sant'Anastasia. Io sono andato da lui e nel momento in cui sono andato lui mi ha chiesto 20.000 euro da dare in tre tranche in periodo dell'anno. Ho resistito un po' dopo varie minacce, chi sei, chi non sei, dopo circa una trattativa ho deciso di darci solo 1.500 euro, a patto che lui non doveva venire più in azienda perché lo denunciava. Lui forse al primo momento ha pensato, ha detto vabbè prendimi 1.500 euro poi vediamo, infatti lui dopo due giorni è venuto, il cognato è venuto, si è preso i soldi e se ne è andato. Inizia così il calvario di Salvatore Cantone, un imprenditore napoletano finito nella rete del racket nel 2005. Ma le richieste non finiscono qui e l'imprenditore viene fatto oggetto continuo di minacce e visite da parte dei camorristi. Per tutto l'anno 2005-2006 loro venivano, mandavano, io li mandavo sempre via, sempre con la minaccia che li denunciavo. Però ecco, nel 2006, settembre 2006, una mattina sono andato in azienda e ho trovato che mi hanno rubato tutto, per circa un danno di circa 100.000 euro. E quel momento là ero un po' preoccupato, cosa fare, non fare, a scendere le rigatte, a non scendere le rigatte. Poi siccome loro mi avevano colpito nella mia dignità e vedendo le foto delle mie figlie e mia moglie, ho deciso di denunciare. A Napoli e in provincia negli ultimi anni c'è stato un incremento di denunce del racket. Erano solo 71 nel 2001, ben 743 nel 2008. Ma il dato più interessante è ciò che è seguito alle denunce di episodi come quelli di cui è stato vittima Salvatore Cantone. Dal novembre 2004, data in cui fu presentata la prima denuncia per estorsione con la collaborazione della prima associazione antiracket napoletana, quella di Pianura, fino al novembre 2009 sono stati avviati 102 procedimenti penali contro 839 indagati e imputati, con la costituzione di parte civile delle associazioni antiracket e in quelli più importanti con la costituzione di parte civile del Comune di Napoli. Di questi procedimenti 60 sono stati definiti con sentenza di primo grado e 39 si sono conclusi anche in appello. Nei 102 procedimenti sono stati rinviati a giudizio 812 imputati e 324 imputati sono stati già condannati in primo grado per un totale di 2.213 anni di carcere. In media sono stati inflitti 6,8 anni di carcere ad ognuno dei condannati. Denunce che aumentano anche per effetto della crisi economica. Ne è convinta la presidentessa del coordinamento napoletano delle associazioni antiracket, Silvana Fucito. Non c'è giorno ci sia qualche imprenditore che denunci, anche nei posti dove neanche ce l'aspettavamo, come nella zona dei Casalesi, si comincia a denunciare e questo chiaramente prova che finalmente qualcosa si sta svegliando nella zona di Napoli. Mai come in questo momento io ritengo che a qualcuno che ha poca dimestichezza può sembrare che tutto sia fermo, invece c'è una bella rinascita della coscienza degli imprenditori. Insomma, tra imprenditori e commercianti di Napoli e provincia si è creata una nuova coscienza del problema racket. E così gli appelli di coloro che hanno subito estorsioni risultano sempre più convincenti. La mia esperienza, io guardo sempre la mia esperienza, che io ho denunciato e per adesso sono tranquillo, faccio la mia vita, che adesso denunciare si può. Italia in controluce. Alle 13.41 la terza storia, che questa volta viene dal passato, la storia dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, un uomo per bene, di poche parole, un professionista. Da alcuni anni ricopriva un ruolo importante il liquidatore della banca privata del finanziere Michele Sindona. Nel tempo Giorgio Ambrosoli aveva svelato i meccanismi dell'economia mafiosa, quella dei colletti bianchi che si nasconde dietro società pulite gestite da prestanome. Giorgio Ambrosoli sarà ucciso dal killer della mafia italo-americana William Aracò su mandato di Michele Sindona e anni dopo la sua memoria è stata ripresa dal figlio Umberto. Era un professionista, un libero professionista che a un certo punto della sua ancora giovane carriera è stato chiamato a rappresentare gli interessi della collettività, chiamato dal governatore della Banca d'Italia in relazione all'incarico di commissario liquidatore della banca privata italiana, la banca di un finanziere molto abile, capace, intelligente, che però aveva costruito negli anni un impero non fondato sul rispetto delle regole. E così quell'impero era crollato di colpo e la banca era fallita e vi era la necessità di un commissario liquidatore che appunto si occupasse degli interessi della collettività in relazione a quel fallimento. Suo padre viene ucciso una sera di molti anni fa e viene ucciso proprio sotto la sua abitazione in via Morozzo dalla Rocca numero 1 a Milano. Sì, 5 anni dopo circa aver ricevuto quell'incarico, perché aveva interpretato il suo ruolo di responsabilità fino in fondo e per come lui riteneva di doverlo interpretare, ovvero avendo a cuore solo ed esclusivamente l'interesse alla tutela del quale era stato chiamato. E così, quando, svolgendo l'incarico di commissario liquidatore, ha realizzato che quel fallimento era determinato, quella bancarotta anzi era stata determinata da un insieme di atti illeciti posti in essere anche a favore di un certo mondo politico, si è trovato ad essere il nemico di quel sistema. Chi lo ha ucciso? Per il suo omicidio è stato incolpato e poi accusato e condannato il finanziere Michele Sindona. Un killer è stato individuato e ha confessato la propria responsabilità, è morto prima del giudizio. Un terzo soggetto che ha svolto le funzioni di trade union. Questa è la responsabilità che è stata definita all'esito di 3 gradi di giudizio. Qual è l'eredità che lascia Giorgio Ambrosoli oggi? Ma questa potrebbe essere una delle tante storie brutte del nostro paese, di un paese fatto spesso di un rapporto perverso fra il mondo economico e il mondo politico. In realtà potrebbe anche essere visto in un altro modo e penso sia questa l'eredità che lascia. L'esempio di un uomo che sa mettere a frutto le proprie capacità, sa essere consapevole della propria responsabilità, sa rimanere libero. Sa rimanere libero, con queste parole si conclude Italia in controluce, l'edizione di oggi. Vi ricordo, dal lunedì al venerdì 6:30, 13:30, decine di reportage, servizi, interviste, temi. Tutte le puntate sono disponibili su www.radio24.it. Le vostre domande, le vostre proposte sul gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, oppure via mail a controluce@radio24.it. A risentirci domani alle 6:30.